In questa seconda parte di Ondivago su Radio Alma Bruxelles andiamo a visitare la Galleria Narciso di Torino, collocata al primo piano di uno splendido palazzo che si affaccia sui giardini Sambui in piazza Carlo Felice. Con la Narciso e il suo direttore Elio Pinottini concludiamo il nostro viaggio all'interno dell'esperienza futurista. La Narciso è infatti specializzata in opere di alcuni autori del movimento, fra cui Mino Rosso, Fillia e Diulgerov. Elio Pinottini parla anche della figura di Marisa Mori, futurista donna, proprio dalla Galleria Narciso riscoperta. La sua galleria si caratterizza per un'attenzione nei confronti dell'arte moderna, in particolar modo delle avanguardie storiche e poi anche tutto il periodo successivo. Certo. E quindi per noi è interessante, visto che abbiamo proposto dei documenti sonori relativi alle avanguardie storiche, capire che tipo di mercato c'è in Italia su queste opere e cosa propone lei, che sì, visto sì. Che rappresenta una galleria anche a Torino. Sì, tra l'altro siamo alla vigilia di un appuntamento importante per noi, perché il 30 aprile facciamo 50 anni di galleria. Ah, perfetto, ecco, così. È una delle cose più interessanti, insomma, che già all'epoca avevamo esposto, avevamo fatto, era stata mia madre che aveva fondato la galleria, portava il nome. E da signorina, mia madre si chiamava Narciso Caterina in Pinottini, era stato Felice Casorati che aveva detto: avete un bellissimo nome in famiglia, chiamate la Galleria Narciso sì. Di Narciso Caterina. La prima mostra che aveva allestito mia madre era stata proprio una collettiva in omaggio alla città di Torino, in cui avremmo nel tempo appunto sviluppato la nostra attività, ed era stato appunto Aspetti dell'arte torinese, e andavamo da autori dell'Ottocento come Fontanesi, Medardo Rosso, Pellizza da Volpedo, fino ai giovanissimi di allora come Pistoletto, come Mondino, che allora erano molto giovani, erano all'inizio insomma della loro carriera, che poi insomma è stata molto importante. E tra l'altro appunto, mentre nella carrellata c'era ovviamente Casorati, c'erano i Sei di Torino, avevamo anche già presentato due autori che sarebbero poi stati specifici della nostra attività, che erano Fillia, Luigi Colombo in arte Fillia, e Mino Rosso, lo scultore. Artisti che allora erano, diciamo, molto emarginati, perché per via che avevano svolto la loro attività all'epoca del fascismo, la critica che nel secondo dopoguerra era quasi tutta insomma di sinistra e marxista, e aveva ignorato, dimenticato, ecco, anche se ci sono state delle eccezioni come Enrico Crispolti, che invece aveva fatto proprio per Torino anche in spazi pubblici la mostra di Balla, aveva fatto le mostre del secondo futurismo, termine che aveva un po' coniato lui, un termine molto direi icastico, che andava benissimo come forma pubblicitaria, però non giusto. E infatti i futuristi dell'epoca che erano ancora vivi, come appunto Diulgerov, anche Mino Rosso, muore nel 63, erano contrari a questa definizione perché sembrava riduttiva, e mentre loro dicevano appunto non si dice mica secondo surrealismo, terzo surrealismo, e poi il cosiddetto secondo futurismo aveva portato elementi nuovi che dal primo futurismo, e non per nulla il movimento insomma più importante era stato l'aeropittura, era stato anche aeropittura e aeroscultura, era stata anche la componente addirittura spiritualistica. Poi avevano fatto anche cose tipo, non so, la cucina futurista, avevano fatto il manifesto dell'arte sacra futurista, perciò c'erano stati tutti degli sviluppi del futurismo. E appunto in questa prima mostra c'erano queste due emblematiche figure che poi, devo dire, è stato sempre una specificità del nostro lavoro, perché abbiamo sempre costantemente tenuti, fatto più mostre sia di Fillia che di Mino Rosso, e poi anche degli altri del gruppo, come Diulgerov, come Farfa, che pur essendo di origine della Venezia Giulia, che poi era finita in Liguria, però per un decennio aveva lavorato qui a Torino e aveva fatto parte del gruppo futurista torinese. E abbiamo sempre costantemente mantenuto vivo l'attenzione a questo gruppo e devo dire che adesso è inserito anche a livello critico nelle grandi mostre pubbliche, non solo italiane, ma all'estero. L'altro anno, che era l'anno appunto del centenario del futurismo, ho avuto richieste di moltissime opere di questi artisti qui proprio in mostre italiane, a cominciare da quella grande di Palazzo Reale di Milano, e anche all'estero. Ho avuto la soddisfazione che addirittura mostre in estero, come a Berlino, hanno messo sulla copertina un'opera di Dulgerov, per dire, quando naturalmente avevano presentato grandi come Balla, Boccioni, Severini. E per cui c'è stata molto anche da parte diciamo della critica straniera, non solo italiana, l'attenzione di nuovo verso questi artisti qui. E poi devo dire che naturalmente c'è stato anche l'interesse proprio dei collezionisti, ecco, che forse non è ancora attento e sviluppato come sarebbe auspicabile per l'importanza qualitativa del loro lavoro, però alcuni artisti come per esempio Fillia, insomma, sono molto ricercati, collezionati. Purtroppo c'è anche la piaga dei falsi, perché naturalmente i falsari ne approfittano subito per inserirsi anche loro, per cui insomma bisogna stare attenti anche negli acquisti a, questo sarebbe poi anche un suggerimento per i collezionisti, di stare attenti, ecco. Perché lei è anche un esperto, nel senso che lei sì, alcuni di questi artisti li conosco molto bene, appunto come Fillia. Di Mino Rosso non ha prodotto poi un grande corpus di opere, che forse per lui è stato anche pittore ma non futurista, quindi è stato chiamato magari a riconoscere delle opere delle opere loro. E Mino Rosso è abbastanza tutto catalogato la sua opera, ecco. Lui all'epoca ovviamente non aveva i mezzi per fare le fusioni in bronzo, sono stati fatti poi nel secondo dopoguerra, e tutte le sue opere sotto la sua sorveglianza, sotto le sue indicazioni. Tra l'altro lui aveva voluto che dopo le fusioni i gessi venissero distrutti. Comunque è stata temperata la sua volontà, abbiamo gli atti notarili che appunto ha constatato che le tiratura in bronzo sono, come lui voleva, in 6 esemplari e non di più, perciò considerati pezzi unici. Fino a 9 o 12 esemplari la scultura viene considerata pezzo unico, e si è proceduto alla distruzione dei gessi, che non è di tutti, era stata anche contestata questa cosa, ma lui era diffidente e non voleva donare i gessi come suggerivano a musei o gipsoteche, perché dice che poi anche loro, come scusa di qualche anniversario, facevano qualche tiratura e allora i gessi sono stati distrutti, ecco. Poi altri artisti come per esempio anche Farfa, che tra l'altro è stato un artista notevolissimo perché ha usato un medium come la carta, ecco, che poi loro i futuristi non volevano che venissero chiamate collage, che non era un termine italiano, ma Farfa voleva che venissero chiamate cartopitture. Ecco. E che poi lui non usava la pittura raramente, ma non usava la pittura per fare le sue opere, andava a ricercare i vari tipi di carte con i vari colori per fare l'opera, ecco. Benissimo, e per quanto riguarda invece gli altri artisti di punta, insomma, che lei propone, ci sono poi, insomma, abbiamo sì, dei noi nomi. Naturalmente abbiamo sempre tenuto, diciamo, nei primi anni 60 e 70, ovviamente, essendo ancora vivi molti artisti, si faceva, direi, la contemporaneità, ecco. Ovviamente poi, che ritengo anche una cosa, insomma, che è giusta per me, abbiamo sempre mantenuto, diciamo, una fedeltà un po' a questi autori, anche perché a volte nel tempo anche i nomi che in un certo momento erano famosi, succede sempre poi inevitabilmente che vengono un po' dimenticati, e allora abbiamo sempre sostenuto questi autori, per cui adesso possiamo dire che la nostra galleria ha una fisionomia storica, ecco. troviamo però giusto a un certo momento rivalutare degli artisti del passato, non sono contemporanei, però artisti del passato che per vari motivi sono diventati, come dire, sconosciuti, la gente li ignora. Io sono molto contento che l'altro anno, nell'anno del futurismo, ho portato una pietra, un sassolino, proprio lì, per esempio, rivalutando la Marisa Mori. Marisa Mori è un'artista nata nel 1980, è mancata, toscana, che però è venuta giovanissimo per motivi familiari a Torino, a 18enne, è stata allieva di Casorati, ha prodotto quadri di grande qualità ispirandosi a motivi casoratiani, dalle maschere ai giocattoli alle nature morte, e ha conosciuto però anche i futuristi come Fillia, con la tacita o non tacita approvazione di Casorati ha fatto quadri futuristi che, devo dire, sono stati un po'... Abbiamo visto noi qui l'anno scorso con lei. Voi avete fatto una bellissima serata con noi. Ecco, con Enrico allora Tottino. Che si è fatta anche recitata una ricetta della Marisa Mori, una ricetta culinaria, ed è stato un po', come dire, una riscoperta. È stato fatto anche uno studio da un giovane critico di Torino che collabora con noi, Adriano Olivieri, che praticamente ha puntualizzato la vicenda artistica di questa pittrice che, come le dico, per motivi vari era stata dimenticata. Ma anche il fatto che sia donna, insomma. Sì, anche il fatto che era donna, certo, quando lei poi dopo, sempre per motivi familiari, il padre era stato spostato a Torino perché lavorava in una compagnia assicurativa, è tornata a Firenze, soprattutto dopo lo iato della guerra. Nel clima, direi, molto chiuso di Firenze, che naturalmente guardava molto il suo grande passato, addirittura lei era stata confinata, diciamo, per le partecipazioni a mostre di pittori nel reparto donne, ecco. Doveva partecipare quando esponevano le donne, non con gli uomini, per cui naturalmente, insomma, anche lei è rimasta, diciamo, atrofizzata, chiusa in questo clima e un po' dimenticata. E ci sono altre scoperte che le... Sì, beh, poi naturalmente riproponiamo, a parte che noi abbiamo fatto anche grandi mostre con artisti esteri, abbiamo avuto l'onore nelle nostre sale di avere grandi persone come appunto Graham Sutherland, Hans Hartung, la vedova di Jane Harp, di cui abbiamo fatto mostre, abbiamo fatto una mostra di un grande nome come Kokoschka, ecco, che lui non aveva potuto partecipare fisicamente, ma insomma ci aveva fatto dei bellissimi complimenti, e abbiamo sempre tenuto questo livello, direi, notevole, molto interessante. E poi abbiamo fatto anche, si può dire, di quasi tutti i grandi del Novecento, da Sironi, naturalmente Casorati, a De Pisis, ma anche... Ho visto un Savigno qui bellissimo, ecco, molto Savigno, bello. Certo, anche Savigno, abbiamo fatto una mostra, anzi addirittura nel 63, la prima, che era anche per quello la riscoperta, diciamo, di Savigno, ecco. E abbiamo tenuto la scuola romana, abbiamo fatto soprattutto Mario Maffai e Antonietta Raffaele Maffai, che ancora adesso meriterebbero, come dire, un risalto maggiore nell'importanza della loro attività nel Novecento italiano. E direi che quasi tutti i grandi maestri, insomma, sono passati da noi, e abbiamo avuto, insomma, la soddisfazione di far conoscere appunto questi grandi nomi a un pubblico torinese, che, devo dire, il collezionismo torinese è molto riservato, non si fa vedere, però devo dire prudente, anche a volte fin troppo prudente nel decidersi, però devo dire che è sempre un buon livello, ecco. Comunque lei come galleria è presente anche in altre fiere nazionali, sì, quindi sì, riscontro anche io non sono molto fieraiolo, però per esempio non so, partecipo tutti gli anni, vado all'Arte Fiera di Bologna, che effettivamente per l'Italia è il maggior, diciamo, palcoscenico, ecco, sia come qualità delle opere presentate, sia come livello e di... E com'è la situazione del collezionismo, del mercato dell'arte? Ma adesso, in questo momento, diciamo, c'è la famosa crisi, sì, insomma, si è fatta sentire anche un po' da noi, sì, purtroppo. Ecco, però devo dire, insomma, non sono fasi, sì, sono fasi che purtroppo, diciamo, nell'arco appunto di un'attività di 50 anni ci sono stati sempre a volte un po' di alti e bassi, e, insomma, per cui continuiamo lo stesso, non ci facciamo spaventare. Abbiamo ascoltato Elio Pinottini della Galleria Narciso di Torino. On divago doc, documenti sonori. Proseguiamo il viaggio dal futurismo al dadaismo. Definire il dadaismo è antidadaista, perché parliamo di un movimento che, dal 1916 fino al 1922, conduce una vita anarchica, senza quell'organizzazione e centralizzazione proposta da Marinetti. La parola dada è di per sé un'espressione ludica, simile ai nonsense dei bambini e alle loro lallazioni. Abbiamo ascoltato un vero brano dadaista registrato casualmente da un divago durante un viaggio in treno. I centri da cui Dada parte sono New York con Duchamp, Picabia e Man Ray e Zurigo con Zara, Hugo Ball e Hans Richter. Il Cabaret Voltaire di Zurigo è il luogo in cui si sviluppano nuove performance e serate dadaiste. Ma ciò succede anche in molte altre località della Germania e dell'Europa. Un divago riporta i documenti sonori originali di un artista dadaista, Kurt Schwitters, pittore e artista tedesco noto per la pratica del collage. Kurt Schwitters è anche poeta sonoro. Nelle sue opere è l'assemblaggio di materiali di recupero la tecnica utilizzata, e nelle poesie è l'assemblaggio dei materiali sonori grezzi. Le due attività adottano la stessa tecnica, un po' come diceva Palazzeschi, parlando di una poesia fatta con gli scarti di tutte le altre. Ascoltiamo la Ursonate dalla voce di Kurt Schwitters. L'opera viene composta tra il 1922 e il 1932. Con questo brano, in quattro movimenti, Kurt Schwitters riprende la sonata tradizionale, ma a modo suo. E questo è il risultato. Ascoltiamo una parte del primo movimento. Die Sonate in Urlauten. Fünf Verbetze u vergifte. Fünf sa. Rens che te bevin skrmu, tiu en setiu rens skrmu, rak te bebi, rom tel sto. Tiu en setiu skrmu, tiu en setiu rens skrmu, rak te bebi, rak te bebi. Pum, pevet etiu, u, c, t, v, b, pum. Abbiamo ascoltato una parte del primo movimento della Ursonate di Kurt Schwitters, composta tra il 1922 e il 1932. Con queste insolite espressioni poetiche e sonore, Ondivago vi saluta e vi invita a unirvi a lui su Facebook. Ondivago, parcours ondoyant travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Pont avec la collaboration de Daniela Terril et Pietro Pedone, mixage Alessandro Gianotti, production du Club du Livre de Bruxelles et Poésie à Total et de Turin. Info ondivago.blogspot.com, email ondivagoradio@gmail.com.